Spazio, ultima frontiera. I viaggi interstellari di 100 celle Avengers. Data astrale. Da una settimana a due settimane dopo. Incredibili eccoci. Cose, puntata numero 53. Sì! E la musica si difende anche oggi, sabato 3 febbraio 2024, e possiamo già fare un applauso solo al fatto che siamo in onda dopo due settimane dall'altra puntata, quindi con una costanza alla quale non siamo abituati, e per questo motivo tutta questa enfasi. Ma con la stessa enfasi saluto alla mia destra il tecnico del suono, anzi la tecnica del suona, Betta. Del suonare bene. Ella. Ciao Betta. Buonasera, buonasera. E alla mia sinistra è Carla. Sei rotto tutto. Sei emozionata subito. Mentre devasta la redazione di 100 Celle Avengers, presento Virginia. Grazie, grazie, grazie. Qualcuno sapete quando si scrive ancora la scaletta. Rimonterà il microfono. E il tecnico che si sta, anzi la tecnica che si sta occupando di rimettere a posto il microfono, aiutate, e che non sente che non a sua volta un niente sulla sua cuffia. Comunque al microfono mi sentite, sì, ma resisterà a questo disservizio e saluterà i nostri ascoltatori. Buonasera. La giornalista Gabri Grubri. Buonasera. Che in effetti si sente poco, mo, non so se niente, no, c'è non un, so se è una questione di microfono, sicuramente di cuffia. C'è un po' di confusione qui che non mi permette di andare avanti a salutare. Mandate una canzone, mamma mia. Facciamo durante la canzone. Allora, facciamo una cosa, tu potresti tu no perché ti sbatte il microfono mentre lo cerco di aggiustare, però Gabri Grubri potrebbe andare avanti con i saluti. Sì, così io, metto io a posto... sto facendo alla cieca, però va anzi bene. No, Gabri Grubri era meno indicata. Allora niente, andiamo avanti con l'esponente della letteratura, la professoressa maestra Viola. Buonasera, buonasera a tutti. Dura, aiutiamo Luigi. Ce la faremo, non ti preoccupare Luigi, leggi per un altro pochino, adesso arrivano. Buonasera. E salutiamo le retrovie dei Beautiful Mind, Franci. Hello. Adesso cominciate a dire delle cose che non c'entrano necessariamente e io aggiusto il microfono. Io ho l'elenco ciao, dei primi. Ciao. Io mi taccio. Ma abbiamo delle canzoni in cui possiamo fare questo, quindi lei può rimanere tranquillamente norma. Secondo me mandare un mi piaceva questa cosa, però vabbè, se resisti allora. Ma cioè, sì, ma certo. Vabbè, appena il tempo di dire, no? Di dire che abbiamo. No, così le cose che si fanno di solito, cioè quando i microfoni non li devi reggere e non c'è ansia, si dice anzitutto, no, Gabri, che abbiamo un canale Telegram, ciao abbiamo Gabri. Abbiamo il canale Radio Telegram, Forte. Abbiamo ovviamente 100 Celle Avengers, dal quale potete comunicare con noi. Sì, in tempo reale. In tempo reale, data astrale, e commentare a iosa quello che ascoltate. Esatto. Come ovviamente c'è il sito che ricordiamo del forte.com/radioforte/100celle Avengers. Andate a ripescare tutte le nostre puntate precedenti. Sono ben 3 anni di puntate. Ben oramai 53 puntate. Ben 53 puntate, diciamolo. Come vuole il tempo. E le trovate tutte in comodi podcast, esatto, da 1-2 ore, e a seconda dell'epoca che scegliete. C'è da salutare ovviamente i nostri amici che ci seguono dall'inizio, cioè sono con noi, anzi sono i fondatori, che dico. C'è Iron Man e... Ma Iron Man doveva essere salutato fra poco in realtà. Ah, scusa, perché aveva dopo oggi il pezzo. Proprio... Oh, no, perdono. Non vi preoccupate. Tutta colpa del microfono che è cascato. Niente, ci ha fatto saltare tutto. Cioè, niente, non è un problema, non è un problema. Vabbè. Non ci consultiamo spesso all'inizio della puntata. Quindi. Vabbè, almeno salutiamo Alexa. Ciao Alexa. Ah, cara. Risata. Lei si poteva salutare? No. Okay, è una tesora, dai. E niente, però almeno anche solo per dire che un tema c'era. Cioè, sai, di solito il tema c'era. Diciamo, c'è il tema? Sì. C'è il tema? No. Quindi a cazzo di cazzo. Oggi c'è il tema. Il tema, poi chi l'ha svolto, chi non l'ha svolto. C'è io per esempio traccia. No. Come quando faccio io, così, no, quando no, faccio no. Oggi c'è il tema, vuol dire che io... Non fare così. No, insomma, comunque... sono pronto ad ascoltare i vostri svolgimenti. E di che si parlava quindi? Si parlava di intelligenza artificiale oggi. Con due L, attenzione. No, è giusto, è giusto. Intelligenza. No, niente, e di numeri anche. Del fatto che intelligenza, io una volta lo dicevo con una L sola. Perché volevi fare il colto. No, perché, perché pensavo così, che fosse da ignoranti dire intelligente. Voi, intelligente, stolti. Dire. E quindi niente, possiamo salutare Iron Man come si deve questa volta. Perché a proposito di intelligenza artificiale, la canzone Iron Man dei Black Sabbath è stata anche... Sì, sì, no, continua. Vai con la biografia dei Black Sabbath, secondo me. No, veramente, non sono la persona più indicata. Ma qui dietro? Ho pronti tutti i numeri del dopo la virgola del pi greco, se vi serve tempo. Cioè, non è male, però hai detto numeri, vai, quindi non dirlo, puoi. Posso dirlo, No, non è vero, Virginia inventa qualcosa. No, niente, non c'è niente da inventare. La canzone Iron Man dei Black Sabbath, per salutare come si deve finalmente Iron Man dopo 53 puntate, è stata interpretata dai famosi attori animati Beavis and Butthead. Quindi quando... E quindi, signora Virginia, la canzone Black Sabbath è qui! È qui! Ho visto la barretta che si caricava, quindi sì! Su Radio Porte 100 celle Avengers. Porta del cuore. Tu mi avevi... fuerte, mijito. Cento celle avenge. Oh, ma! E di nuovo in diretta, schiaffo. L'ho fatto schiaffo stavolta. Su Radio Forte, questa è una cosa fra me e Betta. Lo stupore. Su Radio Forte, 100 celle Avengers. Sì, vabbè, cioè abbiamo il tema. Sì, vabbè, parliamo di AI, ma dobbiamo anche cioè, dare lo spazio all'attualità, seguire passo passo, come Fedez e la Ferragni, i nostri sì, fatti privati. Napoletagnez. Perché noi non siamo autoreferenziali. E nessuno meglio della voce che stiamo per sentire può descrivere. Scrivere, diciamo, più AI di così, tra l'altro. Il momento che stiamo della tutti settimana. Quanti vivendo. Chissà se adesso ci possiamo collegare con la nostra inviata. Settimana. Ciao mamma. Aspetta, scusate, ma è partito. Lo potete anche lasciare. Ok. Gravidanza settimana per settimana. Oh. Ciao oh. Mamma. Sei entrata nella 24esima settimana. Evviva! Complimenti. Ecco alcuni super vantaggi di essere incinta. Ecco fatto. No, vabbè. Anche se mangi di più, non ti senti in colpa. Sbagliata, mamma mia. Niente ragazzi, coda agli uffici pubblici. E questo è vero. In bikini sei bellissima. E questo non lo sappiamo, perché è inverno. E per finire, puoi concederti qualche capriccio in più. Oh. Mamma, non commenta, maestro. Che... No, questo assolutamente non risponde a verità. Ma c'è un... Ha solo e sempre ragione lei. Però no, tutto il resto cioè, è il normale tran tran di un sì, di una vita come un'altra. Per chi se lo fosse perso, c'è questo pargolo. Sta per arrivare Filippo. Sta per arrivare Filippo. Che salutiamo, fra poco lo saluteremo grazie alla l'intelligenza artificiale in qualche modo. No, più che l'intelligenza così sembra che lo abbiamo creato. I potenti mezzi. Non è vero niente. Beh, tecnicamente. Ci stiamo lasciando prendere dal tema, amore caro. E quindi niente, sì, vi abbiamo fatto sentire un piccolo stralcio di come vengono scandite le nostre settimane anche attraverso queste pillole di saggezza e la musichetta che ci piace tanto, anche quella che state ascoltando. Perché io e il papà Suano, ovviamente, papà Suano, papà raccontaci Suano, una storia. Raccontaci una storia, dai. Grazie, Virgi. Prego. Che mi aiuti mentre andiamo, appunto, grazie ai potenti mezzi, Gabri Grubli, che si mette le sonde. Intervistare. E svolge il collegamento più profondo del mondo. Vai. Figliolo. Figliolo, anche oggi siamo qui a insegnarti la vita tramite la radio. Ma questo non perché noi pensiamo di saperla, ma perché tramite la radio sembra tutto vero, sembra tutto assolutamente plausibile. E invece siamo così, siamo due minchioni. Ma tu adesso da lì non ci devi ancora, non ci puoi ancora giudicare bene, bene, bene. Ci vediamo presto, sì, e anche oggi goditi questi consigli per gli acquisti da parte dei tuoi prossimi minchioni. Ciao Filippo! Si vede qui il collegamento più profondo del mondo. Ciao padre! Grazie Filippo, grazie per aver risposto. Io voglio vedere quando avrà veramente questa voce. E torniamo seri. E torniamo. Filippo, io sono tuo padre. Aia. No, quella era la frase che io non vedevo l'ora di... me l'hai spoilerata, sarò io a poter finalmente dire che comunque è tuo padre, sono io. Tutti dicono io sono tuo padre, ma in realtà... Ma perché poi è una questione di doppiaggio italiano, quindi... In realtà pare... sono, è senza io. La cioè, realtà nel doppiaggio italiano è sono tuo padre. Non so, non mi ricordo. Mo che io mettiamo la musica, Muriola, andiamo a cercare. Io andrei in campo. Anzi, maestro, campo. Ma lei ha mai avuto dubbi che io ho sempre ragione? Capita spesso, però ecco. Devo dire che qua ce la potremmo giocare su una versione doppiaggio 86. Ma va bene, ho visto va io bene. E te magari poi sei viste le cose dopo. Non so. Sì, ho visto quello che hanno fatto l'altro ieri. Ma mi sapresti dire come chiudiamo questo imbarazzo di momento? Certo, io volevo dedicare, anzi io ho parlato con il nostro amico Paul, che ovviamente fa parte della radio a tutti gli effetti, e volevo dedicare al nostro fagiolino, esatto, proprio lui, una bellissima versione di Lemon Tree. Fagiolino, ringrazio. Sitting here in the boring room, just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da. I'm sitting here, I miss the park. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy gun inside my head. I feel so tired, put myself into bed. When nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree, stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another joy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. In diretta su Radio Forte, Centocelle Avengers. Un'ansia comunque, cioè, l'intelligenza artificiale non proverebbe questa emozione che sto provando io ora. Allora, secondo me ci stava una cosa. Mica tocca a te. Nel finale di Lemon Tree, c'è stava, se ce lo dici caso, un violino all'ultimo che era suonato dal fratello di Paul McCartney. Virgil la fa sentire sta cosa. Quindi abbiamo lasciato un po' il pezzo andare. E abbiamo questo fiatone, non perché non si può più fumare qua e quindi tutti i corona fumare, e quindi poi tutti tornano. Ma perché è il momento della letteratura e la maestra Viola quindi non è uscita con noi a fumare sta rosica per quello. Stasera, ragazzi, un attimo che ti sentiamo poco, vai. Ok, mi sentite? Sì, okay. Sei intima, vai. Sì, sono intima, devo lanciare la sigla comunque, volevo dire. Abbiamo pure lasciato la porta aperta. Sigla. No, veramente no. Cosa che non arriva? Vabbè, non arriva perché sto succedendo? No, niente, stasera meno male che... Leggere, vorrei sentire questa poesia. Vorrei e non so leggere. Ho voglia di sentire questa poesia. Eccoci. Buonasera a tutti dalla vostra maestra Viola. Buonasera. Sono io l'originale. Sto scherzando, scusa. E allora, stasera in realtà, mi sono documentata un po', ecco, su questa, diciamo, questo tema dell'intelligenza artificiale per quanto riguarda anche il mondo, cioè, dell'arte in generale, ma in particolare appunto della poesia che mi riguarda. E quindi ho trovato, ecco, degli studi a riguardo e ve li volevo appunto far conoscere. Allora, quest'articolo in particolare recita appunto: nasce il verso costruito con gli algoritmi, nuova opportunità o fine del sentimento, la domanda resta aperta. Diciamo che le tecnologie hanno un impatto comunque dirompente sulla vita degli individui e producono significativi effetti nelle dinamiche relazionali. Tra queste la rivoluzione appunto dei linguaggi, abitudini, stili di vita, aprendo in questo modo nuovi scenari sul vivere quotidiano. Il potere della poesia. Diverse personalità, diciamo, hanno discusso sull'importanza, cioè dell'importanza che l'intelligenza artificiale può avere anche in ambito particolare, in un ambito particolare come quello appunto dell'arte e nel caso specifico, in questo caso specifico, della poesia. Diciamo che la capacità della poesia di riuscire ad essere senza tempo fa sì che quest'ultima si possa provare ad adattare anche alle nuove dinamiche della modernità, tra cui quella riguardante appunto l'intelligenza artificiale. E diciamo che ci sono stati pareri appunto, vari pareri a riguardo, e ho trovato un progetto di questo, diciamo, fondatore di Argo Retico, si chiama, una startup che si occupa proprio di intelligenza artificiale, e diciamo il progetto si chiama Poaltri, e è il primo quindi algoritmo ad utilizzare l'intelligenza artificiale per scrivere poesie in lingua italiana. Sì. L'algoritmo elabora tre fasi per riuscire a comporre dei versi. La prima fase è quella di creare un modello, la seconda rileggere il testo e la terza riuscire a produrlo effettivamente. Diciamo che questo studio appunto si è inserito in un contesto di ricerca e sviluppo, e appunto si è dibattuto a lungo su un aspetto particolare, cioè le poesie scritte con l'aiuto dell'intelligenza artificiale possono essere considerate vere e proprie poesie, e quindi diciamo che proprio questo diciamo un altro diciamo studioso di questo argomento, Michelangelo Tagliaferri, afferma che l'intelligenza artificiale crea una poesia che in realtà è altro, perché manca totalmente la presenza fisica del poeta. Quindi la poesia deve essere in grado di suscitare un'emozione, e quando il mercato cerca poi di renderla oggettiva non va bene, in quanto quest'ultima è la combinazione di tutti gli aspetti sensoriali che devono riuscire a generare differenti emozioni e sensazioni per tutti gli individui senza differenze economiche o sociali. E il rischio maggiore appunto per questi studiosi è che questa nuova tecnologia può ridurre l'arte della poesia a un semplice gioco, venendo così a far mancare totalmente la dimensione interpretativa del poeta. E diciamo che è una domanda senza risposta in realtà, perché appunto sempre l'ideatore di questo progetto, Poaltri, afferma che l'intelligenza artificiale è semplicemente uno strumento invece figlio della modernità, e che non per forza si deve escludere il dire e il sentire del poeta stesso. Quindi la questione, diciamo, rimane ancora aperta, e appunto si per ora la risposta non c'è, in quanto per poter rispondere a questo quesito sono necessari ulteriori studi da cui poter trarre appunto delle risposte, e soprattutto si deve continuare a sperimentare. E io a tal proposito diciamo che non ho gli strumenti proprio io personalmente per far funzionare, no? Semmai questo progetto, che ne so, se già comunque sarà in azione, e quindi creare una poesia tramite l'intelligenza artificiale, diciamo che non mi serve, ecco, in questo momento. E anche quindi il mio contributo stasera riguarda, diciamo, il passato. Quindi ho ripreso, diciamo, sono stata un po' una para. E allora. Io infatti ho portato praticamente Cecco Angiolieri, cioè stiamo parlando di quello che una vita fa, il primo a usare l'intelligenza artificiale. Sì, no, in realtà il primo è stato, cioè mi riferisco a De André, lo collego a De André nel 68, quindi diciamo questo cantautore famosissimo ovviamente che accompagna il canto di Cecco Angiolieri, così diciamo, perché comunque abbiamo visto tutti questi come posso dire, questi video, no, di questi artisti che a cui fanno cantare canzoni di altri artisti che semmai non ci sono più, quindi diciamo, siccome io non ho trovato niente di così moderno, vabbè, noi per essere giusti me ne esco così, sempre lo stesso sottofondo comunque, no, è maestro, no, ma no, lei non ha capito, non ha capito, maestro, oggi veramente fuori fuoco, siccome, il maestro, siccome appunto De André ci pensa lui, capito? No, perché io dovrei recitare ora la poesia di Cecco Angiolieri e poi ci dobbiamo ascoltare anche la canzone di De André, che è la poesia di Cecco Angiolieri. Guarda, te la cavi, dicendo maestro, mandi il brano. Quindi niente, stasera molto, perciò ho detto stasera molta teoria, fin troppa, e cosa su cui mi devo documentare ancora anche io tanto, perché è un mondo veramente ma nuovo. Torneremo a parlarne, infatti. Ma sì, infatti, e niente, quindi alla fine il contributo ce lo dà il grande De André con appunto la poesia di Cecco Angiolieri, e intitolata Si fosse fuoco. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Si fosse papa sarei allor giocondo, tutti i cristiani imbrigherei, si fosse imperator sa che farei, a tutti mozzerei lo capo a tondo. Si fosse morte andarei da mio padre, si fosse vita fuggirei da lui, similemente faria da mia madre, si fosse cieco commissione fui, torrei le donne giovani e leggiadre, e vecchie lai della serei altrui. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. Radio Forte 100 Celle Avengers, dopo essere stato bullizzato nell'inframezzo, ma perché questo argomento dell'intelligenza artificiale crea trambusto ovunque, soprattutto in quei luoghi in cui diciamo si affronta nelle ultime 48 ore, come abbiamo fatto alcuni di noi, parlo adesso per me, insomma, che poi ti si aprono 500.000 file, ma è tardi purtroppo, e quindi al di là di quello che è successo nell'intervallo, io invece proprio per dovere di attualità, che appunto ci riconduce non al tema ma all'attualità appunto, vi devo aprire una rubrica che è tanto che non apro, quindi anche solo per il gusto di sentire la sigla di Rise and Fall, la rubrica che parla degli scioglimenti e delle reunion. Sigla. La nostra relazione è terminata, insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno con destini e addio. Lasciarsi, io ci sto. Vai. Improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra banda vale. Lo manda. Ricominciamo. Siamo amici, siamo fuoco sotto la cenere. Ci sono amici che aspettavano. Ma che si crea? La. Inseparabili. Oh, e con questo risucchio che entra, io vi annuncio che si sta per sciogliere un gruppo che diciamo mi smuove emotivamente, quindi solo per quello sento il dovere di dirlo, e anche perché cioè, comunque avevamo detto parliamo di quelli che si sciolgono in modi, diciamo carini, creativi, soprattutto redditizi. Perché tanto questo è appunto il fenomeno che andiamo a analizzare quasi sempre, quindi una certa convenienza, perché appunto anche codesti che state ascoltando e che sono i NoFX si sciolgono sì, ma con un ultimo album che potete acquistare, cioè, quindi è sempre una manovretta, ma soprattutto c'è la ridondanza del numero 40, così lo dico perché c'è chi quest'anno i 40 li ha fatti di età e invece loro li hanno fatti di attività. Nell'83 nascevano i NoFX, niente poco di meno che, il tempo passa, ci sentiamo che vecchi. Paura. E se Gabri fosse stata attenta avrebbe detto ah sì, mio fratello. Vabbè, sì. Bravo. Salutiamo, salutiamo Luca che ci ascolta sempre. Vabbè, niente, da una piccola sponda. Comunque appunto parliamo dello scioglimento dei NoFX, che decidono quindi di ridondare questo numero 40, cioè fare innanzitutto ovviamente un anno di tour di scioglimento in cui toccano le varie mete e in cui suonano tutti e cioè il ritorno vanno 40 pezzi dai 40 album dei 40 ladroni, insomma tutto 40 soprattutto album. No, 40 album ovviamente sono allargato, ma 40 pezzi a concerto che vengono tutti praticamente associati proprio all'album, cioè praticamente fanno una roba a programmazione tipo questo concerto facciamo solo questo disco e questo disco, e quindi poi cioè, tocca vedere all'Italia, che è sempre una meta poco toccata che dai NoFX, che ci tocca. Qui in realtà si chiama Punk in Drublic Fest, che Punk in Drublic allora, appunto richiama cioè... uno dei dischi più seguiti. Sarà a Milano. Dopodiché giusto, invito sì. sul canale 100 Celle Avengers i giovani, o anzi diciamo i vegliardi, perché poi se questi fanno 40 anni chiaramente i loro fans principali non sono proprio i giovani, però insomma quelli che ne sanno di più di me, che invece così le butto lì in radio queste cose, che me l'ha detto Walter. Salutiamo Walter. Ciao, ma perché, Walter. Cioè, perché questa serenità? Perché comunque io non ci posso andare, cioè, comunque saranno le date italiane a maggio, cioè, a pochi giorni da capito Filippo? Cioè, il primo accollo che te do Filippo è che non sono potuto andare a vedere il concerto del scioglimento dei NoFX perché te dovevi nascere. E quindi, quindi niente, ci sentiamo anche in chiusura di questa, questa piccola parentesi. Ma noi ci andremo i NoFX in uno dei pezzi diciamo. Senti, ma sì, prego. Posso fare un'aggiuntina ai Rise and Fall? Sì. Se sono sciolti pure i Profilax. Lo sai che volevo dire pure io. Prendetevi una Rise and Fall vostra. Esatto. Scusate. Però... volevo chiedere dopo, quasi quasi. No, no, vabbè. Ma allora mi devi parlare. mi devi portare degli esempi. E, come appunto vabbè niente, comunque la sento anche questa perdita, ma un po' di meno. Posso fare un'aggiuntina prego, anch'io? Prego. Si sono riunite per la quarta volta le Spice Girls. Dai. Attenzione, così. Ma in quante? Mi pare 5. In tutte e 5? Sì, sì. Siamo attenzione, sicuri. Andremo a verificare. Non ne sono certa però ma quindi faranno anche concerti? Veramente almeno uno lo devi fare proprio perché lo implica l'iter della reunion, se no ti sei riunito a casa non vale. E faranno Punk in Drublic dei NoFX. E faranno Punk in Drublic delle Spice Girl. Comunque noi sentiamo The Death of John Smith dei NoFX. Stai ascoltando Radio Forte e questo a Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. E sempre in diretta su Radio Forte 100, c'è le Avengers, quando la redazione si svuota, uno si deve fare una domanda, professore, cioè nel senso, io non so se la scuola, aspetta, ecco, vedi, quando si svuota che non se ne va anche il tecnico, poi non sentiamo il professore, dicevi, Franci. Eppure pensa, oggi sarei stato, eppure pensate, oggi sarei stato il ribelle dell'argomento della puntata, perché io non vi porto le AI. Le olive, incredibile, male. Quacque tu. E tra l'altro avevo tanto da parlare. Tra l'altro faccio una piccola cosa: quando lei ha parlato del discorso della poesia della I, dico solo questo, poi parto. E una I ha dimostrato un teorema di matematica. Tra l'altro, un teorema su, mi sembra, sui triangoli, sul fatto che se un triangolo ha i due lati, ha i due angoli alla base uguali, allora è un triangolo isoscele. E la I l'ha dimostrato in una maniera anche molto figa, quasi più figa di come l'hanno dimostrato gli uomini. Quindi questa era una piccola cosa da dire. Quindi allora, informissima. Possiamo dire, beautiful mind. Quindi ho coperto la mia parte di AI per oggi. Quindi questa era qua. Comunque, diciamo, è fatta dall'uomo anche la I, no? Sì, però è figa sta cosa, insomma. Comunque oggi non vi cioè, a parte questa piccola cosa, vi parlo oggi di modulazione e di armonizzazione, quindi in particolare andiamo a vedere perché modulare è più facile che armonizzare. Sigla! Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Ma mi sembra un po' fuori del programma, e poi magari non a tutti interessa. Sì, mi interessa. Spiego. Un giorno riusciremo a vedere Dio, chissà come cosa. Come preannuncia la sigla. Sai che mi sembra che dice numero ogni tanto. Lo so. Sigla. Più la sento, più quel dice, numero. Quel non numero niente. L'ho Vabbè. Trovato io. La mia impressione. Va bene. Allora, innanzitutto, capiamo un po' che cosa vuol dire modulare e armonizzare, insomma, per chi non è molto, diciamo, pratico della questione. La modulazione, è, diciamo, in matematica è. La modulazione in musica è, diciamo, il cambio di tonalità di una canzone, no? La cosa che si fa solitamente quando hai, diciamo, un pezzo, lo vuoi far cantare, diciamo, magari hai un pezzo cantato da una donna, la vuoi far cantare da un uomo, quindi cambi la modulazione, quindi lo passi in un'altra tonalità. Ad esempio, che ne so, se c'hai un accordo di, esatto, di Un attimo, forse era un po' greve. Forse era un po' greve. Esatto, questo è un do maggiore, giusto? Ok. Che ne so, possiamo farla in mi. Che ne so, in mi maggiore. Esattamente, bravissimo il maestro. Bravo. Piascicone, bravo Piascicone. E invece, che cos'è l'armonizzazione? L'armonizzazione è invece quando si rimane sulla stessa tonalità, ma si, diciamo, suonano allo stesso tempo gradi differenti della scala. Quindi, che ne so, se parto dal primo, faccio un do re, sempre la scala di do, faccio un do re mi, ok? Esatto, e poi armonizzo l'idea, quindi parto dal mi e la, diciamo, allo stesso tempo faccio, diciamo, mi fa sol. Esatto, ecco. Incredibile. Incredibile. Tutto dal vivo, signori. Non ci siamo preparati in niente, ci tengo a dirlo. Ok, va bene. Vabbè, tutti i musicisti qua, mo se non mi sapeva fare un'armonizzazione era grave. Esatto. È severissima. Mamma. Con me, ma sì. Questa è una bullizzato cosa nostra. Bullizzato oggi. Cattivissimo. Va bene. Allora, a livello matematico, qual è l'operazione che il nostro cervello va a fare quando moduliamo o quando armonizziamo? È un'operazione che si chiama trasformazione lineare. Che cos'è una trasformazione lineare? Per dirlo in maniera semplice, la trasformazione lineare è semplicemente uno spostamento proprio lineare, un'operazione semplice nella matematica che non prevede né l'utilizzo, che ne so, di funzioni esponenziali, di quadrati, di radici. È proprio, si prende una variabile e ci si somma una costante, che ne so. Ok, quindi è proprio una retta. Se vi ricordate l'equazione di una retta, l'equazione di una retta è una variabile più una costante. Non so, per chi magari un po' se la ricorda. Lo ricordo come fosse sì, oggi. Sì. Ricordo, esatto. Ok, allora, che cosa succede quando vado a modulare, nel caso particolare della trasformazione lineare? Quando vado a modulare, sostanzialmente eseguo una trasformazione lineare che ha praticamente come unico parametro la distanza, diciamo, tra le note. Quindi fondamentalmente, se io faccio come prima l'accordo di Do, esattamente, e lo modulo, quindi che ne so, lo faccio diventare un accordo di Mi, per dire... Che cosa succede? Che la distanza delle note è data semplicemente, diciamo, dalla distanza tra la prima nota, quindi il Do, e poi il Mi. Praticamente, diciamo, tutte le altre note. Oddio, sembra la cosa di Sanpei, è bellissima. Vabbè, ok. Eppure i cartoni, siamo portati a casa. Esatto, infatti. E diciamo, tutte le altre note del nuovo accordo praticamente sono determinate dalla regola della scala maggiore, in questo caso, no? Quindi nel caso particolare del Mi avrò le altre note che avranno appunto la distanza del primo grado della scala di Mi, primo, terzo e quinto grado. E quindi praticamente nella modulazione abbiamo solo questo parametro. Che cosa succede invece con l'armonizzazione? Nell'armonizzazione questa cosa non succede per il semplice fatto che l'armonizzazione, oltre ad avere chiaramente la distanza, ha anche il discorso che dipende a quale grado armonizziamo. Quindi ad esempio, se noi, come nell'esempio di prima, andiamo ad armonizzare di terzo grado, quindi faccio un do re mi e allo stesso tempo un mi fa sol, diciamo, esatto, praticamente ad esempio la distanza tra do e re è un tono, mentre invece tra mi e fa è un semitono. Quindi già abbiamo una differenza, e quindi non abbiamo solo da gestire la distanza dello spostamento della scala, ma anche il grado. Quindi, praticamente, ricapitolando, perché modulare è più facile? Perché quando noi moduliamo nella trasformazione lineare, noi gestiamo un solo parametro, abbiamo una sola variabile, mentre invece nell'armonizzazione noi andiamo a gestire due cose, cioè il cambiamento, quindi lo spostamento da una nota a un'altra, ma anche il tipo di grado che andiamo ad armonizzare. Perché in teoria nell'armonizzazione ti muovi all'interno della stessa scala. Yes, esattamente. Okay. Quindi hai anche quest'altra variabile. Sostanzialmente, diciamo, nella modulazione tu hai una variabile sola, nella modulazione avete una variabile sola, nell'armonizzazione tu hai praticamente due variabili, e quindi questo è il motivo per cui è più facile modulare piuttosto che armonizzare. Wow. E niente, quindi questa era una pillolina preparata così al volo, mentre... Notevole, come tirare meglio che spingere, cioè comunque delle profonde verità però spiegate al dettaglio, nel dettaglio. E sono questi i motivi per cui la musica è matematica, però. Esatto. Cioè, per me è l'unico motivo. E sono anche i motivi per cui poi uno ci mette un po', diciamo, ad accettarli. sì. Alle volte, nel senso, lo dico proprio personalmente, non solo perché Franci è anche uno che diciamo nell'ambito musicale ama molto contare le battute, e quindi poi quando per un caso della vita musicale esce un numero disparo di battute, fra quante battute? Fra 27 battute, Franci. Oh cazzo, cioè lo vedi un po' che ci rimane male, però. Esatto. E lì quindi gli dici, vabbè, forse questa cosa di contare non aiuta, però al netto di questo in realtà la spiegazione poi di quello che avviene è reale, ed è poi, cioè, è frutto dello studio delle relazioni nella scala, e invece che la semplice distanza pure in semitoni, che era quello appunto che mi illudevo che una volta mi potesse aiutare a sconfiggere qualsiasi mostro, invece no. E invece no. se era così, appunto, valevano le cose di Suanovic, di cui, esatto, parlavo tanto tempo fa, di quel famoso pianoforte a tutti i tasti uguali. Posso dire una cosa che ancora porto avanti, sì, però vabbè. Sì, sì. Pianoforte, prego. Traspositivo. No, niente. No. Parlare nel microfono che ti giri sempre. Ah, era un'altra bullizzazione. Ah, oggi è giornata. Oggi vittima. 3 febbraio. E sì. Mi sono perso comunque. Pensa poi se adesso dovessimo andare avanti con quello che avevamo detto di fare, Virgi, che fai? Mi bullizzi ancora di più? Assolutamente dobbiamo andare avanti con quello che avevamo deciso. Allora, pensa di fare. Quanto me devo girare adesso. Cioè, io comunque c'avrei. Vabbè. Allora si giri. No. di pure, Franci, perché adesso ho questo litigio. Ci avrei anche un pezzo da mandare. Infatti mandiamo. Proprio perché si parlava di modulazione e di armonizzazioni, ho preso un pezzo che c'ha abbastanza di tutti e due. Cioè, in realtà c'ha una modulazione sola, ma c'ha parecchie armonizzazioni molto fighe. Il pezzo è di quel gran gruppo italiano degli Oliver Onions, ed è la colonna sonora di Galaxy Express, del cartone Galaxy Express. In realtà riadattato, perché in origine questa qui era la colonna sonora di Bomber, di Bud Spencer e Terence, no, solo di Bud Spencer, scusa, non c'era Terence, ed era Fantasy, se ve la ricordate, ed è stata riadattata a Galaxy Express 999, quindi riadattando le parole. Quindi, tutta per voi, Galaxy Express. Ma 999. Che bella! Galaxy, Galaxy, Galaxy, Galaxy. Yeah. Radio Forte 100 CL Avengers, sempre in diretta quando se n'è andata quasi la prima ora di divertimento. Io, per dare una giustificazione a quello che sta per succedere, faccio un gancio con l'attualità della scuola di musica e quindi lancio la sigla di quest'anno. Vedi, il mondo si divide in due categorie. Finalmente so qual è il mio posto. E si è comunque inteso almeno che quest'anno ci chiamiamo gli Opla e gli Oissa. Stupendo. Come gruppi, noi l'abbiamo inteso, i gruppi non l'hanno inteso però, mi sa. Va bene, questo è un altro argomento, comunque lo capiranno prima o poi, se ne faranno una ragione. E perché ho introdotto questa cosa così? Perché nel dopo sala, quel dopo sala che dovrebbe essere documentato da degli inviati che però purtroppo sono in sciopero, si è verificato una richiesta di aiuto al momento sbagliato alla persona sbagliata, quel tardone di Biascicone che si trovava da quelle parti e che appunto ricevette quel giorno una richiesta, in quanto esponente della musica, una domanda di teoria. Ma bello che sostituisci musicista con esponente della musica. Esponente. Va bene. No, è bello che non mi bullizzi per niente oggi. Invece ti butti sempre giù. Comunque esponeva la musica anche Biascicone in qualche maniera. Ha cercato di rispondere all'allievo degli Opla che avanzava una domanda di tipo didattico, rispondendo che comunque i modi, i gradi, la scala hanno un significato e pensava di aver colto nel segno. Tuttavia poi esatto, Iron Man è quello che mi aiuta a ricordare che una volta noi avevamo un moto di didattica vera verso coloro che pur senza cuore potevano capire qualcosa di ciò che si cela dietro al discorso dell'armonia e del contrappunto. E come l'avevamo chiamata questa cosa? Suono Just Cares for You. Sì. Suono Just Cares for You. Grande ritorno. Evviva. Nel momento in cui ci accingiamo a fare questa cosa, ovviamente manterremo nell'anonimato lo studente di Opla che ha chiesto. Vabbè, era Franci, Franci, quindi questa è una speciale F. Casali o suono F. Casali o Francesco C, esatto, ero indeciso fra i due. Francesco C ci si confonde. Sta di fatto che fondo. L'abbiamo tolto apposta ci drammatizziamo un pochino, lo mettiamo a basso. Va bene. Sì, grazie. Ok. Filippo, che dici? Si sente bene? Si sente il pianoforte? No, non si sente, lo vedi? Alza un pochino, Bettina. Che Filippo non sente il pianoforte. Piano, allora, che cosa che aveva chiesto Francesco? Aveva chiesto, ma perché in questo pezzo dove ci sta il re? Allora, ovviamente noi abbiamo per scontato una serie di cose e quindi il Franci... quel giorno mi guardò negli occhi e mi disse: ma perché un pezzo in re maggiore e poi c'è un fa diesis maggiore? Cioè, scusa, io ho studiato secondo la questione dell'acqua, la roba lì. Modulazione. Secondo studio suono, le regole della scala maggiore e delle sue degli accordi costruiti su di essa e quindi i suoi gradi. E quel fa diesis doveva essere minore, diciamola brevemente. Però io intanto, anzi Biascicone, anche lui in quel momento disse: ma fra re e fa diesis è come fra do e mi, cioè se parliamo di do adesso di Maiorca, se no non ci capisco niente. E infatti tutta la didattica parte dalla scala di do, il do maggiore, quindi cioè, anche in questa sede avvocato, io tolgo la musica, se no vado fuori. Vogliamo dire la scala più bella della musica, la scala più bella che la musica potesse inventare tutta da sola, bianca, che bello. l'intelligenza artificiale che ha creato questa cosa, la scala maggiore. Allora, che cosa succedeva? Che secondo appunto il dettame di cui sopra, questo che diciamo era il nostro re maggiore, è Do, doveva essere, diciamo, susseguito da un mi minore, che in quel caso deve essere un fa diesis minore, per rispondere ai dettami della scala maggiore di cui sopra, che al mercato mio padre comprò. Allora, io la spiegazione non ve la do in matematica, perché sarebbe troppo facile per me. Ve la do in sentimenti, in mondi. Allora, la scala maggiore esprime, anzitutto, una sorta di ottimismo, ok? Siamo d'accordo su questo? Ottimismo, tutto va bene. Ci piace. Già sei contraria? Che è il profumo della vita. Appunto. Facciamola dare da una ira. Dai, va bene lo stesso. Ok. Diciamo un sentore che le cose potrebbero andare bene. Siamo presa bene, dai, una presa bene. Ora, di interessante in questa scala maggiore, nei soli vari gradi, minore, maggiore, diminuito, eccetera, eccetera, ci sta innanzitutto... No, innanzitutto, fra le varie, quella che può fare da contraltare a questa felicità, scusa felicità, ho usato un termine anche troppo spinto, la felicità, che è quella che si chiama la dominante, che te diresti, ah, la dominante è questa, no, non è questa, è quella, la sua alternativa, la sua sorella o fratello alternativo, che in questo caso è questa, e cioè siamo in Do, sono contento, come si potrebbe essere contenti altrimenti? Così, per esempio... Sono altrettanto contento, ma soprattutto c'è questa cosa della risolvenza, che non questo si chiama così ovviamente. Scusa? È un sol, scusa, hai ragione. Sì. La risolvenza, te lo faccio anche settima, proprio per spiegare che questa questione della dominante domina, nel senso che ha una gran voglia di ritornare all'alta felicità, all'altro stato di felicità, cioè stato di felicità 1, poi cambio perché mi sono rotto, di stare sempre felice in qua maniera. È difficile, ragazzi, poi Francesco non è riesce a seguire. È come al laboratorio, tranquillo. Ok, allora, tutto questo ritorna, ok, c'è questo stato, sono felice qui e sono felice qui. Allora, che cosa succede? Che la scala maggiore, o comunque il Do maggiore, ha una sua relativa... Minore. Oh, grazie perché mi date conforto. Allora, la relativa... Ops. La relativa minore consta di un mondo di tristezza, ok? Un mondo di tristezza fatto delle stesse note di quella maggiore. Sì, non ti però, incazzare. No, è perché non riuscivo a farmi perché sentire, c'era il pubblico che applaudiva. Triste, allora, quando siamo nel mondo di tristezza, non è che non ci voglia anche qui una sua, diciamo, controparte, una sua alternativa, una sua dominanza nel campo della tristezza. Cioè, sono triste qui, e quindi se vado al quinto grado, che nel caso di prima era il Sol, quindi la dominante era Sol, adesso invece è Mi, questo Mi è minore secondo ora i dettami di qui sopra. Allora, non sentite che non c'è quella cosa di cui parlavo sopra? Cioè, sono due stati di infelicità che si possono paragonare fra di loro senza che uno faccia venire voglia di tornare all'altro. Dici, come invece succedeva. Non c'è la risolvenza, la luccicanza di Shining, ok? Quella luccicanza di Shining si è scoperta soltanto chiedendo un prestito a quelli di un'altra scala. Ditta, cioè quelli della ditta della scala maggiore, anzi della scala minore, hanno detto: ci stanno certi dell'est che fanno una scala un po' più arabeggiante, se famo per sta mezza nota da quelli, ti dico, cambia tutto, cioè anziché questo stato di infelicità che è uguale, io te lo drammatizzo. Oddio. Che ho fatto? Purtroppo questo non è più minore. Però cioè, non è che non ci sia voglia, anzi ancora più angoscia, di vivere questo stato qui. E quindi il prestito avviene nel caso appunto in cui si faccia utilizzo, per chiudere, della scala minore, melodica e o armonica. No, e o armonica. E o mi piaceva, però per essere aperto a tutte le possibilità. Ma sono due possibilità. E nel caso dell'uso della melodica, abbiamo appunto l'introduzione di una arabeggiantezza, e cioè di l'armonica, bravo, di una risolvenza data dalla distanza appunto del semitono che sentite all'ultimo, viene subito il neo napoletano, quello che vi pare. No, Ma Napoli, mentre la piattezza era dalla o Sarracino, che era appunto ma tutto questo io so che in Francia è penetrato fino a un certo punto, quindi per chiudere io metto intanto in sottofondo e poi ce lo sentiremo qualcosa che nel nostro campo, nel campo dei metallari, fa sentire questa cosa proprio didatticamente, e cioè questo è il minore, ok, poi viene il minore quell'altro, maggiorato e minore. Cioè questo praticamente poi dà vita a uno dei riff più fighi che tutti i metallari fanno, e soprattutto questo è uno dei pezzi che la gente dice: ah, i metallica non ti piacciono, e allora Orion sono Orion, comunque si pronuncia, Orion, dei metallica, lo andiamo a sentire, sono solo 8 minuti, quindi la sfumeremo su Radio Forte 100 Celle Avengers, vai! Radio Forte 100 Celle Avengers alle 18.09. Chi più adatto a darvi indicazioni sull'intelligenza artificiale e le nuove tecnologie del nord del nerd? Maestro, sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso il Radio Forte 100 Celle Avengers, è una rubrica adotta che si chiama Nord del Nerd. Come l'ha chiamato? Nord del Nerd! Grazie, Nord del Nerd! Ora che cammini. Buonasera piccoli nerd. Quest'oggi il Nord va mainstream, lo so, capita anche ai migliori. Ma la redazione ha nominato l'intelligenza artificiale e non potevo esimermi. Lo sapete di cosa sto per parlare, è inutile che fate i vaghi. Intelligenza artificiale, perlomeno in tempi moderni, chiama Black Mirror. Per quei pochi per quei pochi al mondo che non sanno di cosa stiamo parlando, Black Mirror è una serie britannica iniziata nel 2011 e che ha prodotto in 12 anni soltanto 6 stagioni e un totale di soli 26 episodi. La sua caratteristica principale è che ogni episodio è un cazzotto nello stomaco. Sì. Confermo, cioè io ne ho visto uno. Delicatissima. Lo so, è così. Ma io stessa, vi dico la verità, ci ho messo anni per vederle tutte, perché i primi episodi mi avevano talmente turbata che non volevo guardare quelli dopo, perché te fanno un po' male la vita. Il Black Mirror è lo schermo spento di tablet, telefoni e device vari che dominano la vita moderna, uno specchio nero in cui la nostra immagine si riflette distorta e oscura. Ogni episodio di questa serie antologica è autoconclusivo e descrive una situazione distopica in cui un tipo di tecnologia esistente viene portato all'estremo e viene mostrato uno scenario possibile, solitamente tutt'altro che incoraggiante, ma che ispira riflessioni piuttosto profonde sul ruolo della tecnologia nella vita umana. Nel caso dell'AI ci sono un paio di episodi che toccano il tema. I fan più accaniti avranno subito pensato a Be Right Back, in cui una donna perde il marito e si affida a un'azienda che le vende un chatbot simile all'attuale ChatGPT, che una volta addestrato sui social del marito riesce a risponderle come farebbe il caro istinto. Oh mamma! Sì. Tristissima sta cosa. Il passo all'acquisto di un vero e proprio androide in cui installare l'AI e avere una copia, un pelo anaffettiva del marito è breve. Ora, a parere mio, gli episodi di Black Mirror sono di due categorie. Alcuni sfociano un po' nel fantascientifico, discostandosi molto dalla realtà, in uno slancio un po' ambizioso a volte, che descrive situazioni lontane a venire come questa. Altri invece descrivono cose un po' più vicine e probabili. Be Right Back ricade nella prima categoria. È vero che le intelligenze artificiali attualmente possono riprodurre la voce di qualcuno studiandolo, ma arrivare alla finezza di riprodurre quasi fedelmente il carattere di un essere umano è chiaramente ancora fantascienza dura e pura. Per questo in realtà vorrei parlare di un altro episodio che presenta un problema un po' più interessante ai giorni nostri, a parere mio. Sto parlando di Joanne is Awful, primo della sesta stagione, un episodio geniale in cui la protagonista Joanne si trova a combattere contro Netflix. Una sera, annoiata, fa partire una nuova serie appena caricata sulla popolare piattaforma, solo per scoprire che si tratta della sua vita, letteralmente. L'episodio mostra per filo e per segno la sua giornata, montata da un'intelligenza artificiale che ha inoltre appiccicato sui vari personaggi le fattezze di personaggi famosi. Così si ritrova la propria vita spiattellata sul grande schermo, interpretata da Salma Hayek. L'episodio si dipana intorno alla disperazione prima della protagonista e poi della stessa Salma Hayek, perché entrambe si scontrano con il fatto di aver accettato di uno di quei tanti disclaimer che tutti accettiamo 10 volte al giorno ogni volta che ci iscriviamo a un servizio. Nel loro caso trattavasi di contratti legalmente validi che cedevano l'uso della loro immagine completamente senza riserve, rendendo legale sia il mostrare la vita di una persona senza censure sia l'uso indiscriminato delle fattezze di un'altra. Il culmine del paradosso arriva quando Joanne decise di scatenare Salma Hayek, pensando che abbia più potere di risolvere la questione di una persona come lei, facendo quello che ognuno di noi chiaramente avrebbe sicuramente pensato di fare, cioè ingurgita 10 panini di Burger King, si mette un costume da cheerleader, si disegna un pisello sulla fronte e va a cagare sul tappeto rosso di un matrimonio in chiesa. Grande, penso questo. Il tutto viene meglio dei Vanzina. Esatto. Solo Black Mirror. Cioè, io sono morta. Una trama così. Il tutto viene riprodotto ovviamente fedelmente il giorno dopo su Netflix con le sembianze di Salma Hayek, che a quel punto si incazza. Al di là della situazione comica, ho scelto questo episodio per parlare di AI perché sottolinea un problema che al momento mi sembra un po' più reale legato a questo tipo di tecnologia. Non tanto la tecnologia in sé e la simoviana paura che possa prendere coscienza, che è una cosa molto lontana da quella sorta di deficienza artificiale che abbiamo a disposizione ora, quanto il fatto che quello che abbiamo possa essere usato a scopi malevoli, come nel caso del deepfake, cioè la sintesi dell'immagine umana basata sull'intelligenza artificiale usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti con video e immagini prodotti di sana pianta, come nel caso della povera Joanne. Questa tecnica è una realtà, e in realtà è già stata usata per creare falsi video pornografici, per il revenge porn, e può essere usato per creare fake news, bufale, truffe. Questa è la parte che in realtà mi preoccupa un po' di più del discorso. Se in maniera relativamente facile è possibile produrre video e audio di una persona esistente che non sono mai stati girati e senza l'approvazione della persona stessa, potete immaginare da soli scenari danteschi in cui le cose possono andare da male a malissimo. Il passo dal poter ricevere una chiamata apparentemente dalla propria mamma che chiede il PIN della carta di credito è molto breve. Per non parlare del mondo delle fake news. Già adesso la situazione è preoccupante da questo punto di vista, senza deficienze artificiali che con quelle umane già facciamo abbastanza. Al punto tale da creare problemi addirittura durante la pandemia per la diffusione indiscriminata di teorie mediche dalle dubbie origini. Nel momento in cui diventi estremamente semplice per chiunque produrre immagini fasulle credibili, il discorso comincia a diventare complicato e anche pericoloso. E per questa cosa qui chiedo l'aiuto da casa alla nostra Gabby Grubbi sulla parte legale di questo discorso. Non so se vuole parlarne adesso. Per questo prima ti chiedevo se c'era il brano alla fine del pezzo tuo. Sì, c'è. Va bene, allora non so se lo vogliamo andare subito, ma io su questo dicevo che siano veramente tante le riflessioni anche in ambito giuridico, come dicevi tu, le implicazioni, i riflessi. E perché chiaramente tutto parte da una questione di consenso, ma dove si ferma? Diciamo, c'è un limite comunque all'uso dell'immagine che si può fare chiaramente di persone, personaggi che siano, poi bisogna anche vedere se sono personaggi privati o pubblici, diciamo così, personaggi noti, ecco, la cui vita privata in qualche modo diventa anche pubblica. Insomma, sono veramente tanti gli aspetti. Mi dicevi che era un po' interessante quella cosa della cosa morale. Sì, perché, esatto, nel senso che poi molta di quel che accade della realtà legata all'uso attuale che si fa di ChatGPT o comunque dell'intelligenza artificiale, la verità è che non è ancora normata. Tante volte accade nel diritto, cioè che il diritto arrivi più tardi e in maniera molto più lenta rispetto a come no, le cose invece già succedono, accadono poi, perché soprattutto con la tecnologia appunto le cose sono molto vanno rapidissime. E a me ha fatto pensare questo racconto, sì, che mi facevi di questa puntata magnifica di Black Mirror, che non so, non vedrò mai, o forse sì, perché comunque mi ha incuriosito molto. E al discorso, quando tu mi dicevi, insomma, magari dopo 70 anni, per quel discorso che facevamo, quando diciamo il diritto d'autore su una certa opera, ecco, noi lo diciamo e lo ridiciamo da tempo, scade dopo un certo lasso di tempo, che abbiamo detto in Italia è 70 anni dalla morte dell'autore. Per cui in ipotesi dici, magari si potrebbe prendere, in questo caso, Salma Hayek. L'opera è metti un film di Salma Hayek, però già fatto, ecco, sarebbe uno scenario, volendolo calare in questa ipotesi, ecco, immaginiamo un film di Salma Hayek dopo 70 anni dalla sua morte, magari se ne potrebbe fare scempio, ecco. E invece no, ecco, io questo avevo come riflessione, mi era venuto di fare, perché per fortuna, diciamo, come baluardo accanto anche ai diritti patrimoniali d'autore, ci sono i famosi diritti morali d'autore, che non scadono mai, che sono perpetui e che sono incedibili, seguono, diciamo, altre regole e che sono molto legati anche quindi alla reputazione, oltre a diritti d'immagine, diritti della personalità, che sono costituzionalmente garantiti, ma insomma in questo scivoliamo in una grande pesantata. E per questo avevo chiesto al maestro la sigla di Forum, ma poi l'abbiamo scaricata. Cioè, riesumiamo santi. Però poteva starci bene. Però ecco, limitando il discorso a quello dei diritti morali, loro preservano questi diritti, preservano anche una sfera più appunto morale, in qualche modo chiamiamola anche etica, va legata alla personalità dell'autore, per cui non si potrebbe prendere Salma Hayek e farla defecare su un tappeto in una chiesa dopo 70 anni dalla sua morte. Ecco, un tantino, diciamo, lesivo della sua reputazione, della sua dignità, personalità, reputazione. Per cui ci sono dei paletti, vedremo come poi saranno applicati alla AI, perché, ripeto, è un campo vasto, ma insomma dove le cose accadono molto rapidamente e spesso la legge fa difficoltà a stargli appresso. Chiaramente con tutte le tecnologie che vanno così veloci è un po' difficile. E, recentemente sul, diciamo, Fra, vorrei dire qualcosa? È una cosa super veloce. In realtà volevo spezzare una lancia un po' sulla AI, cioè una lancia a favore, nel senso che poi la AI viene vista soprattutto per queste cose, cioè ultimamente ha visibilità, diciamo, per queste cose, quindi diritti d'autore. Salma Hayek, sì. Salma Hayek che fa cose terrificanti. Però insomma, ricordiamo che l'AI in realtà ha un sacco di applicazioni, soprattutto nel campo medico, dove insomma sta ottenendo dei grandi risultati, soprattutto per la ricostruzione delle proteine. Quindi, diciamo, applausi. Che purtroppo emerge sempre questo aspetto della I che viene utilizzata per fare queste cose, tipo, però poi in realtà viene utilizzata per farne tante altre degne abbastanza di nota e che, diciamo, non vengono pubblicizzate abbastanza. Forse in realtà chiudo la parentesi. No, scusa. Vado. No, dico, forse appunto il punto è quello proprio di non farla, cioè per forza a far prendere piede in tutti i campi della vita dell'uomo, ma in determinati campi dove può appunto servire, come diceva Francesco, anzi anche in modo importante, preponderante, però. Ma semplicemente come, diciamo, un po' come tutte le cose va regolamentata, essendo una cosa nuova, troppo nuova e arrivata così in scivolata all'interno della vita delle persone, va un attimino regolata. Però dispiace anche a me un po' parlarne, perché sembra che ne parli in accezione negativa, in realtà cioè, ci lavoro e stimo molto quello che sta succedendo, però ci sono punti che ancora mi perplimono un attimo. Per esempio, stamattina leggevo un estratto di un saggio di Noam Chomsky, un grande nome della scienza, 96 anni, ragazzi, questo è un patrimonio vivente dell'umanità. È stato il fondatore della grammatica generativo trasformazionale, tipo il più rilevante contributo alla linguistica teorica del XX secolo, e ora mi deizzo perché lo devo citare e io lo adoro. E quello che diceva è molto interessante. La mente umana non è una macchina statistica come ChatGPT e simili, avida di centinaia di terabyte di dati per arrivare alla risposta più plausibile o a una conversazione o alla risposta più probabile a una domanda scientifica. Al contrario, la mente umana è un sistema sorprendentemente efficiente ed elegante che funziona con una quantità infinita di informazioni. Non cerca di corrompere le correlazioni dai dati, ma piuttosto cerca di creare spiegazioni. Smettiamola di chiamarla intelligenza artificiale, chiamiamola per quello che è, realizzando software di plagio, perché non crea nulla ma copia opere esistenti di artisti esistenti e le modifica in modo tale che possano sfuggire al diritto d'autore. Si tratta del più grande furto di proprietà intellettuale mai registrato da quando i coloni europei arrivarono nella comunità indiana. La tocca un po' pianino. Wow. Questo mi lancia, fa un grande gancio con quello che dopo diremo ai cigni. Sì. Però così è. Io personalmente non so bene che pensare di tutto questo discorso. Lungi da me averne paura, chiaramente non condivido le secchiate di discorsi, ho paura della I che sento ovunque, perché non è così. Però perché il problema poi in sé non è la tecnologia stessa, che è un passo avanti dell'evoluzione umana ed è imprescindibile che l'umanità vada avanti, è di fatto un merito che sia così. Quello che mi preoccupa, come preoccupa l'Europa al momento, è l'utilizzo. Banalmente il punto non è la vittoria umana di aver inventato il coltello, ma l'uso che ne fanno le persone quando decidono o di tagliarci il pane o di accoltellare la suocera. Detto ciò, vi lascio un po' alla riflessione, in attesa della IACT, cioè della legislazione che l'Europa sta producendo proprio in questi giorni, per cercare di dare linee guida che risolvano questo tipo di problematiche, perché l'uso dell'intelligenza artificiale sia in qualche modo etico e responsabile e rispetti i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, comprendendo la protezione dei cittadini da possibili abusi legati all'uso della I. Magari quando uscirà poi chiederemo un approfondimento alla nostra Gabby Grubbi. Certo. Intanto recuperatevi Black Mirror se non l'avete ancora visto. Vi fa un po' prendere male la vita, quindi guardatelo in momenti in cui non siete troppo felici o non so, volete essere tristi. E soprattutto, se posso aggiungere, sbrigatevi, perché piano piano le cose delle prime puntate si realizzano, quindi È vero, un pochino. No, perché lo spoiler non era abbastanza. Vabbè, 2011, ho capito. Comunque, vabbè, io volevo aggiungere di mettere i numeri della vostra carta di credito nel canale 100 Celle Avengers insieme al Pin. Bravo, bravo. Ma perché è un promemoria utile comunque per tutti. Ma sei tu o è un deepfake? Non so, di cosa parli? Comunque, ogni episodio di questa serie alla fine è una perla, quindi guardateveli e vi faranno un po' riflettere sulla tecnologia e le implicazioni nella vita di tutti i giorni. Piccoli nerd, il nostro momento finisce qui. Vi lascio con un pezzo degli anni 60 che ricorre spessissimo nella serie, facendone un po' da firma. Anyone who knows that love is will understand. Irma Thomas. Anyone? turn around, even put me down, still I'll be there for you. The world may think I'm foolish, they can't see you like I can. Oh, but anyone who knows what love is c'è la Avengers. E sempre in diretta su Radio Forte, invece siamo sei. Non c'è la stessa cosa. Non lo so, era bello quando eravamo quattro. Non lo so, siamo mai stati quattro? Sì, forse sì. A ballare l'Alligalli? Sì, eravamo sei. Vabbè, ringraziamo Antonello che ci ascolta sempre e... Grande che fan. Che doveva succedere oggi? Tanto sapete che ci sono, i cigni di Balacà pronti a scattare. Pronti in canna, quindi scusate, sì, passo secondo la parola. Passare, se la trovi puoi passare subito alla sigla. Dici? Sì. Sigla. Ma papà. Papà, guarda. Ma papà, ma non lo senti che è uguale ai cigni di Balacà? Cigni di Balacà, bentornati, bentornate a questa nuova puntata. Che cosa mi dimentica il sottofondo? Ma cos'era? Che cosa? No, niente. Ero io che ridevo. Ho fatto una faccia strana. Tutto a posto. Vado? Prego, prego, ci scusi. No, no, no, fate con comodo. Dicevo, perché si parla di intelligenza artificiale, ne stiamo sviscerando diversi contenuti, diversi aspetti. Io sono andata proprio subito dopo il Nord del Nerd, non a caso, perché Bettany ha anticipato già di contenuti che riguardano anche il mondo del diritto. E sono veramente tante, appunto, le implicazioni. E appunto, non abbiamo detto, anche filosofiche, etiche, occupazionali, perché insomma anche dal punto di vista dei lavoratori che si chiedono appunto ma questa intelligenza artificiale, ma ci ruberà il lavoro? Questa è una domanda che in tanti si pongono. È bello che ve lo poniate ancora come domanda. Esatto, probabilmente è una certa... Chissà. Alcuni altri aspetti per esempio riguardano, ecco, questa cosa che poi dicevi alla fine, verso la fine, Betty, hai citato, perdonami, non mi ricordo chi, no, il luminare della scienza, ecco, Chomsky. E Per quanto riguarda anche l'AI Act di cui hai parlato, sì, si aspetta ancora che una legge appunto uniforme, come dicevamo, che regoli un po' la questione dell'uso dell'intelligenza artificiale e soprattutto della protezione delle persone e dei diritti. Per quanto riguarda ad esempio le famose elaborazioni, quindi il fatto che ChatGPT prenda, o comunque parliamo in generale dell'intelligenza artificiale, prenda opere di altri, le ammischi tutte e ne crei un qualcosa di altro e diverso, diciamo che questo fino ad ora è stato fatto, perché sempre è stato fatto, ne parlavamo pure stamattina con il maestro, cioè da sempre si prende l'opera di qualcuno, ne si fa una rielaborazione, ne si crea un prodotto che può essere più o meno originale. Ecco, diciamo che in questo caso la legge è già intervenuta, proprio perché è una questione che succede da sempre, e che dice, lo sappiamo, cioè che dice che un'opera è derivata, così si chiamano, godono anche loro di una protezione. Chiaramente bisognerà chiedere l'autorizzazione ai titolari del diritto d'autore sulle opere che vengono rielaborate. E quindi la domanda che si pone è: così come succede per gli esseri umani, ecco, diciamo così, quando arriva l'intelligenza artificiale e rielabora qualcosa fatto da altri, ammesso che ne chieda l'autorizzazione, sta creando qualcosa di originale che merita la tutela del diritto d'autore, quindi una protezione? E una risposta in realtà c'è già arrivata, non dalla legge ma dalle corti. Io ho pescato questa decisione che è anche molto recente, ovviamente, dell'agosto del 2023. La corte del distretto della Columbia si è espressa dicendo appunto nell'agosto del 23 che le opere create dall'intelligenza artificiale non godono di alcuna protezione. No. Mi dispiace cari, ma è così. Quindi insomma qualche risposta inizia ad arrivare in questo senso, per fortuna, quindi almeno sappiamo come distinguerci per certi versi da questa intelligenza artificiale, almeno ciò che è creato da una... da questi robot, posso chiamarli così? Secondo me c'è come un approccio un po' retro. No, perché dire in continuazione intelligenza artificiale mi crea anche una certa difficoltà. Robot lo preferisco. Robot. Dolly che io chiamavo Wally. Salutiamo Wally che ci segue anche lui sempre. Sì, infatti, salutiamo Wally che ci segue. Però ecco, qualche risposta l'abbiamo avuta. Inoltre, la questione qual è? Quella che dicevo, tra le altre implicazioni giuridiche, riguardano appunto quella che dicevo prima, cioè l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro, ovvero lei si può attribuire un'intelligenza creativa? Possiamo quindi immaginare che un giorno Dolly crei un'opera che... venga riconosciuta come originale e quindi protetta, meritevole di protezione, e con tutto quello che ne consegue, quindi diritti di esclusiva, soldi che entrano, eccetera eccetera. Domanda quindi provocatoria che vi pongo: come reagireste se scopriste che la Gioconda di Leonardo da Vinci o Guernica di Picasso non fossero state dipinte dai due artisti, ma fossero state ad esempio eseguite dai loro aiutanti o dai collaboratori, o appunto da un'intelligenza artificiale? Perderebbero di valore o meno? Perché oggi sappiamo che l'intelligenza artificiale è in grado di riprodurre Guernica di Picasso, ma l'idea chi ce l'ha avuta? Ecco, e questa è la domanda che dobbiamo porci. Cioè, sul piano del diritto, tutto questo si traduce nel seguente concetto: sono le idee che vengono tutelate e non è la loro esecuzione materiale, cioè non è l'opera in sé quello che poi viene eseguito o come viene eseguito, ma è l'idea, quindi è il genio di Leonardo, il genio di Picasso che vengono appunto tutelati. Questo per fortuna ci rincuora, insomma ci dà delle risposte, perché ChatGPT non è altro che una macchina, quindi un servo sciocco che esegue, e spesso anche male, lo abbiamo visto. Lo odia. Dissing. No, nel senso che ancora sono imperfette le opere, abbiamo visto che ci sono tanti errori, ma mica lo dico quello io. Quello è il problema tuo, che le fa ancora troppo male. No. Anche quando le farà benissimo, anche quando le farà... eseguirà alla perfezione, appunto il concetto è che eseguirà qualcosa che qualcuno gli dice di eseguire, e quindi è quel genio creativo che viene tutelato e non l'esecuzione della macchina. Guarda, diciamo così. Se posso, per spezzare una lancia, permetterò alla povera chat GPT di rispondere alla domanda in questione. Attenzione. No. Scoop. Quanto gli erode però. Ecco la risposta di chat GPT alla domanda. Ma tu ci ruberai il lavoro? Lei dice, lei, lui, non lo sa quello che è. La preoccupazione che l'intelligenza artificiale e l'automazione possano rubare il lavoro alle persone è comprensibile e ampiamente dibattuta. Tuttavia, la mia esistenza e il mio scopo sono progettati per assistere, ampliare e migliorare le capacità umane, non per sostituire il lavoro umano. Posso aiutare a svolgere compiti ripetitivi, fornire informazioni rapidamente, supportare l'apprendimento e la ricerca e offrire assistenza in vari campi, ma non possiedo la creatività, l'empatia e il giudizio complessivo che caratterizzano il lavoro umano. Vabbè, quindi lo confessa. Dicono tutti così, dicono. Questa sei preparata. Sta preparata, sì. Ma io l'ho chiesto adesso. No, beh, in effetti, insomma, dice qualcosa di corretto, stranamente. Si è parata il culo. Che non però ha. Sì, dice qualcosa assolutamente di giusto. Ma del resto, insomma, è anche il vecchio discorso che si faceva di siamo tutti fotografi, cioè adesso che abbiamo tutti i cellulari con le fotocamere e sappiamo cliccare, clic, che siamo tutti fotografi col Ma io me lo ricordo anche citando un film che non cito mai, Jurassic Park, quando cioè, tra il primo e il secondo ci fu un grande utilizzo non degli animatronics ma della computer grafica. Già da lì si diceva però sì, cambia tutto, però non è più la stessa cosa. Pure sì. Ma io, ragazzi, allora, adesso che l'avete detto, vi porto ancora più indietro. Pensate alle botteghe rinascimentali, quando il maestro cioè, è una questione che si può andare veramente lontano con questo discorso, perché pensate a quando appunto nelle botteghe il titolare faceva eseguire alcune parti dell'opera ai suoi aiutanti. Ma si trattava appunto di interventi parziali, no? Oppure pensiamo a Andy Warhol e alla Factory, no? Dove c'era una dimensione della produzione seriale delle opere che provenivano dal genio come idea, come concetto, ma poi negli anni 60 appunto abbiamo assistito a questa serialità per cui Andy Warhol di fatto impiegava tantissimi assistenti per realizzare le sue serigrafie. E quindi, insomma, la storia dell'artista che affida ad assistenti o a laboratori specializzati l'esecuzione delle sue opere è molto antica. E a questo proposito, scusa Franci, dimmi. Vai. No, dico, se posso aggiungo il fatto che diciamo il raggiungimento di una certa tecnologia ha sempre poi portato oltre, diciamo, i limiti dell'arte in generale. Ad esempio, quando è esplosa la fotografia è il momento in cui è nato l'impressionismo, nel senso che aveva poco senso ormai disegnare dei quadri che fossero uguali, perché ormai c'era la fotografia e quindi e infatti gli impressionisti stanno tutti a Rosicà, però. Esatto, la fotografia hanno rotto il cappello. Però dopo l'avvento della fotografia è nato invece l'iperrealismo, che cercava di emulare la fotografia. Sì, e poi c'è stato un certo punto in cui c'è stata la totale dematerializzazione dell'arte, Duchamp, cioè a un certo punto mi avete rotto il cazzo, non è tanto quello che io eseguo e come lo eseguo, ma è appunto sempre il discorso dell'idea che c'è dietro. Ok, tornando a quello che stavo dicendo, ecco, del caso clamoroso conflitto legale che avevo trovato in proposito, ecco, tra l'artista italiano Maurizio Cattelan e lo scultore francese Daniel Druet, al quale Cattelan aveva commissionato la realizzazione di nuove sculture iperrealiste, appunto, tra il 99 e il 2006, pagandogliele ben 30.000 euro, ma ciascuna. Opere che poi Cattelan però rivendeva a milioni di euro, chiaramente sfruttando anche la sua notorietà, ecco, il suo genio. E che è successo? Che Druet ha portato Cattelan in tribunale rivendicando per sé il diritto esclusivo su quelle sculture, battendosi proprio contro tutti quegli artisti che usano il lavoro degli altri per promuovere se stessi. Che è successo? Che la corte ha rigettato la domanda di Druet, dicendo appunto quello che stiamo dicendo un po' goffamente per quanto riguarda anche ChatGPT, cioè tu sei stato un mero esecutore, non hai diritti di originalità su quelle opere. Anche una cosa. Scusa, sì. No, penso che in quel caso, cioè, se l'interazione avviene tra due persone, le due persone avranno degli accordi pregressi per fare queste cose. Sì, quindi, sicuramente ci sono state implicazioni. Sì, siamo sicura che poi Cattelan gli aveva fatto anche firmare qualche carta una quietanza di pagamento. T'ho dato 30.000 euro. Ma lo vedo pure, come dicevamo per l'altra volta, dal punto di vista della musica, no? Chi è il compositore e chi è l'esecutore? Certo, non sarà messo tra. Allora, questo è un altro. tra, per il, ne parlavamo stamattina col maestro, perché lì per esempio subentra il discorso dei famosi diritti connessi, che esistono in effetti, non sono, sono cugine dei diritti d'autore, i diritti connessi, e riguardano proprio gli esecutori e gli interpreti. Quindi non sono gli autori, ma sono gli esecutori, che tu dici vabbè, io scusate non conto niente, e allora a un certo punto dai, poiché... via questi 20 euro su, non so proprio 20 euro, perché cioè, un conto è vieni ai e la commissione, la committenza, cioè vieni come per esempio i turnisti, vieni, te pago, sì. Ciao. È un conto invece chi interpreta, esegue e comunque ha un contributo creativo a modo suo, e qui si apre tutto il filone appunto dei famosi diritti connessi, che sono parenti stretti dei diritti d'autore. E insomma, vabbè, cioè, È lunga. Io vado, devo un po' stringere. Volevo solo citare quello che invece di cui parlavamo pure l'altra volta con Viola, la maestra di Claire Torri, che invece ce l'ha fatta a far valere questo suo. Claire Torri, ricordiamo chi è, la vocalist che ha contribuito all'incisione del celebre album dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, che tutti conosciamo, ed è quel famoso assolo da brividi nel brano di Great the Sky. Non lo abbiamo, ma insomma, lo abbiamo tutti in mente e nel cuore. Ecco, in sala di incisione alla cantante infatti era stato detto di improvvisare, e questa cosa bastò per far riconoscere quindi una... poi il diritto di essere riconosciuta come coautrice del brano a Claire Torri, appunto, insieme a Richard Wright. E quindi insomma, signori, la discussione è ampia. Io volevo solo concludere con quest'ultima riflessione un po' ovviamente aulica, forse troppo, sulla indiscussa o presunta supremazia del pensiero sulla forma. Ecco, questa riflessione, ricordiamoci che la Bibbia fu scritta su ispirazione divina, e quella impressa sulle pagine di carta sarebbe di conseguenza la parola di Dio, che quindi ne detiene legalmente il copyright. Non sarà quindi un problema di poco conto fargli avere i proventi del più grande best seller di tutti i tempi. Oh, applauso qui, non mi entrava l'applauso. E Dio chiama l'applauso. Soprattutto il Vecchio Testamento è una gran figata. Bene, adesso allora parte Cigni è finita. Avevamo subito attaccato ma non c'è il brano. Mettiamo un brano o mandiamo subito una bella rubrica? Che cosa... Va bene, era il momento della rubrica, è vero, era anche tardi e quindi... Io mi sono dilungata, scusate. No, quindi io direi... Direi? Sì. Sì, lo potremmo dire. Sig. Questa è Aspettando Mogol, sigla. Dammi tre parole. Paracetamolo. Come parla? Scrivo con testo. Scendo tutto dal bar, sembro tutto anche a... Ho speso 2K su una ska. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Sfogliando mai le mie parole. Parole, parole, parole, parole. Una parola ancora la spenderemo quest'oggi in questa rubrica che in realtà analizza di solito i testi delle canzoni. Quest'oggi si butta così in caciara del filosofico, fatto triggerare da questo argomento della intelligenza artificiale, nonché appunto la continua ricerca mia del perché c'ho questo interesse a volte un po' polemico, a volte un po' invidioso verso chi scrive i testi, soprattutto chi scrive in italiano. Insomma, vado a vedere che cosa scrive, perché lo scrive, come lo scrive, e a volte c'ha dei riferimenti un po' più esterni di oggi, e oggi lo è un po' più così, un po' più autobiografico. Strano, non parli mai di cazzi tuoi. Infatti comunque è una cosa Fagiolino. Che passa come Filippo, allora questa rubrica è rivolta deve, però. Soprattutto a te, Fagiolino in arte Filippo, e quindi questo importa a molti. I am importa a molti, ok. Questo perché poi fondamentalmente poi i SinoFX. Vai così, che vai così. Bell'apsus. I Happy Noise c'entrano anche un minimo. Ma comunque la tematica è urgenza versus committenza nella creazione di un'opera, chiamiamola opera. Molto interessante. Sì, molto interessante, perché partivo dalla sindrome del foglio bianco che io ho. O comunque molti amo, che sempre a mettersi al centro della cosa, non credo di essere l'unico, e comunque la intendiamo come quel qualcosa che quel disagio che ti prende nel cominciare diciamo a scrivere, che sia scrivere parole ma che sia scrivere note, quando appunto all'inizio, quando c'è la tavolozza dei colori, la tavola bianca, e gli devi dare una cosa, il famoso horror vacui. Allora uno direbbe l'ispirazione, per semplificare. Comunque sa di fatto che mi sono un po' intrippato sul funzionamento mio, e magari anche non solo mio, allorquando un qualcosa mi viene dato, ma non dico una struttura di pensiero, una storia d'amore, un dramma incredibile, anche soltanto un incipit, ma che non venga da me. Allora, da questo minimo a un massimo di invece appunto ricevere una vera e propria committenza, cioè oh, mi devi fare una canzone su questa cosa perché poi magari vai a conoscere questa persona che te ne parla, vivi tu stesso, ti fai interprete di questa cosa e ne scrivi. E con quell'estremo, anche solo invece che insomma hai ricevuto un input, insomma questa cosa si supera, e nella vita io divento più prolifico quando faccio le cose sull'arte che quando invece seguo l'urgenza. Concordo. Cioè l'urgenza è quella cosa appunto che porta anche Virginia a scrivere molto, ma vabbè, non voglio spoilerare cose della vita sua, però insomma a volte capita, sì, ho scritto, sì, un pezzo, poi dopo un giorno ho scritto un altro pezzo, cioè, sì, ma so, son meglio, capitano, sono momenti di sono più, mi danno più soddisfazione quando ho una committenza o un incipit da qualcun altro. E infatti, no vabbè, poi nel senso infatti relativo a me, però poi riscontrabile, dipende un po' come gli va a uno. Però insomma la questione era appunto legata all'affrontare, diciamo, qualcosa che ci scuote, o qualcosa che ci scuote ma che riusciamo a tenere diciamo lucidamente a bada. Mm-hmm. Allora in questo momento poi, come ho detto, si trasforma è un po' un crossover quest'oggi che faccio con Aspettando Mogol special, intelligenza artificiale special, non c'entra niente, e infatti c'entra anche questo in questo caso. Lo metto sottofondo. Tu mi avevi detto bello. Che dovevi ritrovare, esatto, te stessa. È questo che stavi cercando. Allora, questo è quello che succede quando affrontate le cose troppo a caldo. Scrivete un testo e avete la tematica amorosa che vi scuote, e ne scrivete così di getto, e vi partono le cose tipo di cui abbiamo già parlato. Te la ricordi? Te la ricordi, maestra Viola, la vendicativa Shakira, che in questo pezzo mette nomi, cognomi, eccala, scusa. Gli bruciava un po' a Shakira. Appena, esatto, appena. Allora Filippo, devi sapere che anche a papà una volta a 16 anni gli successe che visse un dramma amoroso tale che, siccome si enfatizza molto a 16 anni, te lo dico, guarda, poi te la fai via. Allora lui decise di scrivere solo a 16, un pezzo che faceva un po' il funerale vichingo di questa relazione, ma lo faceva un po', diciamo, alla Shakira, spiattellando le proprie emozioni del momento a caldo, senza nomi e cognomi, ma con un pubblico che si riduce a amici e parenti, per cui tutti sanno di che stai a parlare, di come stai a parlare. Io le chiamo le canzoni rosicone. Brava. Però appunto, se rosica Shakira, cioè, quante visualizzazioni c'ha sto video? Beh, non volevo avere le stesse visualizzazioni io in quel momento. Poi subito dopo averlo fatto, aver inseguito l'urgenza di scriverla, perché in quel momento, e questa è la parte bella, la musica mi dava consolazione, e quindi diciamo che mi sfogavo e stavo bene soltanto in quel momento che la scrivo, che la vera. Poi dopo d'arte mi sono pentito, raga. Cioè noi abbiamo messo questo pezzo, poi tra l'altro ve lo dico scusandomi con 40 anni, no 30 anni di ritardo, nella prima compilation fatta da Happy Noise. Ora la compilation io capisco che non si sa più che cos'è, perché oggigiorno si ascolta tutto a random. Una volta c'era long playing, e quindi ti ascoltavi solo un disco di uno, e poi c'era la compilation, che erano diversi pezzi. Insomma vabbè, prima di fare il long playing un gruppo aveva la sua prima grande opportunità con la compilation punk, poi punk rock. Io ho fatto un pezzo di 4 minuti e mezzo, che nel punk comunque è una roba già vietata. La suite, vietata. Con appunto l'unica barriera che mi sono creato è l'inglese, che comunque negli anni in cui si scriveva questo pezzo era ancora più basso, diciamo, il livello in Italia, quindi un po' mi volevo salvare in questa maniera. Ah, ma è in inglese? È in inglese. Ah, cioè, ma allora nessuno ci è per quello che io da sempre, anche con questa rubrica che si chiude, scusate, ho l'invidia per coloro che riescono a scrivere in italiano, quindi disinvoltura, perché lì io sicuramente mi sono autocondannato all'inglese per altri, così, diciamo, almeno 10 anni, poi dopo ho cominciato e poi si sono sciolti. però vabbè, insomma, l'urgenza versus la committenza, diciamo che credo che anche nel caso di Mogol, dal nome a questa rubrica che citava Viola, la fortuna venga di più quando tu usi la tua grande capacità di scrivere poesie eccetera eccetera coi cazzi di un altro. Lo so, è banale, però diciamo che quindi appunto diventa una committenza o comunque qualcun altro che ti ha invogliato a farlo, forse anche il compleanno dei 40 anni di Luca, che questa volta decidiamo. Che salutiamo, comunque, ci sta ascoltando, senti, da Parigi. Ti senti più ispirato, e così è anche con lo Radio zio Forte di Filippo. 100 Celle Avengers, che adesso che cosa vede succedere alle 18.51? A proposito di Filippo, io volevo dire che, a parte che ci sono lo zio e i nonni che, comunque, lo salutano. Filippo, in caso, cioè, scrivi una poesia, scrivi una cosa che non la pubblicare. Cioè, se ti lasciate, cioè, parlane prima con me. Vabbè, niente, vai. No, volevo dire che c'era il nonno di Filippo che aveva pensato e creato per noi una puntata tempo addietro di Artifici. Ve lo ricordate, Artifici? Artifici, oh. Angelo. Saluti. Grande Angelo. Ecco, Filippo vuole sentire nonno. No, però ecco, non so se abbiamo il tempo. Sai, calma, dalla regia che ci dicono. Abbiamo 10 minuti, sono a 51. Dipende, però da non abbiamo più poi spazio per altro. Che ce lo prendiamo e poi nel podcast vai. Sfumiamo la musica. Ho rivelato questo trucco di 100 Celle Avengers. Decidiamo che lo mettiamo. Quindi intanto sigla, così prendo tempo. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo. Grazie Angelo. Ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Amiche e amici, bentornati ad Artifici. È una pillola che si svolge in trasferta, perché col caldo io mi rifugio in Sila, a Camigliatello, e qua posso fare ricorso solo alla mia memoria. Vabbè, parliamo di seduzione. Seduzione attraverso le forme dell'arte. La seduzione è uno dei principi fondamentali, delle leggi fondamentali che regolano l'intero universo, sia la parte non animata sia la parte animata. Per la parte non animata basta pensare all'attrazione fra luna e mare, o alla stessa legge di gravità, che, in base alla quale due corpi non animati si attraggono, quindi si muovono. Nel mondo vegetale è di esperienza comune l'edera e gli altri rampicanti che si abbarbicano a un fusto che trovano, o anche al muro, insomma, ma se c'è un vegetale accanto si attaccano lì. Per l'attrazione del mondo animale, che comprende anche noi, è inutile fare esempi. Io vorrei sfatare una leggenda metropolitana che era molto in voga quando ero più giovane e nei tempi precedenti, e non so fino a che punto sia rimasta e sia ancora attuale questa leggenda, e cioè che il cervello dei maschi per il 99% pensa sempre alla stessa cosa, mentre quello delle femminucce no. È una leggenda. Lo sapevano bene da sempre, si è sempre saputo, è che secoli di repressione, millenni di repressione ai danni della donna hanno portato ad una pesantissima mortificazione, se non proprio negazione della femminilità, dell'erotismo, della sessualità. Per cui un uomo, come diceva la Cortellesi, che non mi ricordo quando, ha recitato un bel monologo scritto da Berthe Zaghi, no? Per mettere in mostra proprio la discriminazione che c'è ai danni delle donne. Se un uomo ha tante avventure, tante donne ci sa fare, se una donna ha tanti uomini è una mignotta, diceva la Cortellesi, e questo è il sentire comune. Però poeti, pittori, artisti hanno sempre potuto dire la verità. Noi ricordiamo in una delle pillole scorse, io ho fatto riferimento a quello che Veronese ha dovuto dire davanti alla Inquisizione, che lo accusava di blasfemia, di tendenze eretiche a proposito di un quadro, l'ultima cena. E Veronese disse: ma noi pittori si pigliamo la licenza che si pigliano i poeti e i matti. Quindi pittori, poeti e matti sono tutti dello stesso brodo e si possono prendere licenze così, verso le quali si deve essere più, abbiamo capito. quindi i poeti, vi voglio leggere tre quartine di Lorenzo il Magnifico, quartine che fanno parte di un canto che conosciamo tutti, Quanta è bella giovinezza. Lui l'ha scritto nel 1490 in occasione del carnevale, e queste quartine dicono così. Parla dei satiretti che inseguono le ninfe e dice questo: questi lieti satiretti delle ninfe innamorati per caverne e per boschetti han lor posto 100 agguati. E poi continua: queste ninfe Radio Forte 100 Celle Avengers, quando ci si assume la responsabilità di introdurre la versione a puntate di Artifici e per questioni tecniche si passa alla prossima rubrica. No, chiediamo scusa però ad Angelo, chiedilo tu, per favore. No, perché questo taglio netto è stato un applauso ad Angelo. Ecco, bravo, chiediamo scusa anche da parte al di nonno Filippo piange. Mannaggia. È stato un brutto taglio. Riprendiamo la prossima volta con la seduzione. Dai, stai tranquillo, te lo faccio sentire in posta. Ecco Filippo che piange in diretta. Vai, abbiamo ancora altri 3 minuti. Vai, continuiamo con la rubrica, vai Virgi. No, non abbiamo una successiva rubrica. Come non abbiamo una successiva rubrica? Niente, io ve lo stavo a dire in 2 minuti, io non riesco nemmeno a dire ciao. Vabbè, e allora ragazzi, quindi, è stato tutto inutile, stavo molto bene, di farvelo capire. Applausi. E vabbè, ci abbiamo provato. Allora, cosa l'abbiamo fatta fare allora questa cosa, ragazzi? Capiamoci. Per punizione ci dobbiamo sentire una cover di sottofondo. Dobbiamo mandare quella lì, allora. Ai Bold. Vai col pezzo? Vai col pezzo. Yo, see you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. If you will not be a chair, forget not ask. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Oh, tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna figure it out. If you wanna be my lover, yeah, give me no plans, but make it last forever. Friendship never fails. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love, are you for real? Oh, no, won't be hasty, I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Show and say what I want, what I really, really want. Oh, tell me what you want, what you really. really, really wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna sit there say, if you wanna be my lover, yeah, get with my friends, but make it last forever, but it never ends. If you wanna be my lover, you have got to feel it. Life is ticking, it's too easy. That's the way it is. Oh, here's the story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who locked it in your face. You got Gina against D, you locked it on an easy piece. Doesn't come for free, she's the real thing. I know you're gonna be. How you say, tell me about it down and what it's all around. Tell me about it down and what it's all around. If you wanna be my lover, yeah, get with my friends, but make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to be. That's a ticket, it's too easy. That's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta smile. Down, down, down. Somebody down and what it's all about. Somebody down and what it's all around. Somebody down and what it's all about. Somebody down and sing a sick. If you wanna be my lover. E di nuovo in diretta, giusto il tempo di salutarci, ricordarci che questa puntata giusto è in podcast sul sito Radio Forte 100 Celle Avengers, anzi no, non è vero, / Radio Forte, la sezione 100 Celle Avengers, cerchiamo di essere esatto, pochetto precisi, no così alla sinfaso. Proprio per precisione dobbiamo comunque dire che quella versione era di Freddie Mercury che cantava le Spice Girls, scusate, devo entrare a dire questa cosa. E questo aspettavate di diritto. Detto ciò, ci diamo appuntamento senza proprio avere dubbio alcuno fra due settimane, che sarà praticamente la vigilia del saggio, di cui non abbiamo parlato oggi, perché la prossima volta parleremo solo di tutto quello, giusto, giusto, giusto. E non di Sanremo, E quindi assolutamente, beh, il nostro è meglio. Esatto. Va bene, a proposito di Sanremo, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Venite il 14 a sentirci. Venite il 14 febbraio al Forte Prenestino e Rock Cartoons. Non mancare. È nel pub. La musica si riprende.